Ieri abbiamo parlato della meditazione, seguendo l'invito di Papa Francesco, che nell'udienza di settimana scorsa ci invitava a meditare la parola di Dio, cioè entrando dentro nella vita che questa parola ci dona e ad applicarla ai nostri giorni. Io usavo quel verbo, attualizzarla. E ancora Francesco diceva, in questo ci deve guidare lo Spirito Santo. Bene, io stamattina ho proprio fatto esperienza di questo, perché come ho preso in mano il Messalino quotidiano e ho cominciato a leggere la prima lettura, subito mi è venuta un'ispirazione. Non ce l'avevo in mente. Questa è l'azione dello Spirito, ispirazione. Dopo alcuni giorni, Paolo, siamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 15, Paolo disse a Barnaba, ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore. Vediamo come stanno. Che cosa fanno questi due apostoli? Sono stati in una città, hanno predicato, per grazia di Dio hanno suscitato una comunità e poi dicono dobbiamo ritornare a coltivarli. Questa è una grande ispirazione, amici. Applichiamola a noi. Se il Signore ci dà la gioia, la fortuna di suscitare con la nostra persona, col nostro parlare, con la nostra personalità, di suscitare un po' di fede in qualche persona, noi dobbiamo coltivarla. Se tu metti a dimora una pianticella e poi la abbandoni, muore. Se tu la coltivi, cresce e porta frutto. Cosa vuol dire? Prendete una catechista. Una catechista magari ha avuto un anno, due anni o ha attualmente alcuni ragazzini che particolarmente si intendono con lei, la seguono. Cara catechista, devi coltivarli. Devi informarti come vanno a scuola. Se la mamma di uno dei tuoi bambini è colpita da una malattia, devi telefonare come sta la tua mamma. Fai sport, come è andata la partita. Questo vuol dire, amici, amare una persona e coltivarla. Il mondo lo fa. Io ricevo ancora a Natale gli auguri di uno che mi ha venduto una fotocopiatrice 5 anni fa e mi fa gli auguri di Natale, ma uno dice, ma cosa mi interessa? Niente, però lui tiene caldi i clienti. E noi? E noi? Sentivo una persona di Dio che usava una frase molto forte su questo e dice, noi quando abbiamo piantato una pianticella, quando dobbiamo coltivarla, perché è come una persona che concepisce un figlio nel suo grembo. Deve farla crescere. Noi purtroppo facciamo tanti aborti spirituali. Poi mi ha colpito questa frase, ma rende molto bene l'idea. Tu con la tua fede hai partorito a Gesù una persona e poi basta, non la segui più. Perché? Perché magari questa persona non ti corrisponde, perché tu dici che hai tante cose da fare, perché magari una volta ti ha risposto male, perché magari tu telefoni e non ti risponde mai, e tu dici arrangiati. Vedete che bella la parola di Dio quando lo Spirito Santo ti ispira. Forse questa frase nessuno di voi l'aveva colta, e se io l'ho colta non è per merito mio, è perché lo Spirito Santo se tu ti applichi a meditare la parola di Dio, lo Spirito Santo, se tu lo preghi e se tu lo ami, ti illumina. Non per nulla dei 7 doni dello Spirito, 4 riguardano il comprendere, il capire, la sapienza, l'intelletto, il consiglio e la scienza. Cari amici, giorni fa vi dicevo: diventiamo devoti del Padre, diventiamo devoti anche dello Spirito Santo. Naturalmente il nostro amore è Gesù, che ci ha affascinato col Vangelo. La Trinità. È bello pregare tutto il cielo, è bello pregare tutti per i nostri morti, è bello pregare tutti i santi, la Madonna, bellissimo. Ma se uno è capace, per dono di Dio, di innamorarsi del Padre, dello Spirito Santo e di Gesù, non gli manca più niente. Il nostro Dio è Dio Trinità, che io amo chiamare Dio Trinità d'amore.